Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Buongiorno e il ben ritrovati dopo circa una settimana di assenza da questi microfoni. Oggi puntata particolare, parleremo di editoria con una giovanissima editrice, Arianna, che peraltro ha fatto delle belle pubblicazioni anche interessanti sotto il profilo dell'importanza della pubblicazione. E poi parleremo di energia alternativa. Cosa vuol dire l'energia alternativa? Parliamo di energia che non è dipeso soltanto dal gasolio, ma di energia nucleare, di energia eolica, quindi da parte del vento, e di tantissime altre fonti da dove si può attingere energia e trasformarla poi in energia elettrica. Allora, io direi a questo proposito, intanto abbiamo già in diretta, non è ancora tra due minuti, allora dicevo, bisogna ringraziare gli sponsor che sono sempre tantissimi, tra questi per esempio i mobili Zito, che sono a Castelbuono, hanno centri espositivi, dei negozi straordinari, sono esclusivisti di zona per quanto attiene un'azienda molto importante, andateli a visitare, perché oltre a trovare tutto quello che le industrie nazionali producono, dai divani in pelle, in stoffa, di diverse misure, di diverse colorazioni, dalle stanze da letto alle cucine, eccetera, sono importanti, questa azienda è importante perché sono dei maestri artigiani, quindi su misura vi possono fare le cucine, le stanze da letto, ma arredarvi anche, se avete la disponibilità, di arredarvi anche i vostri negozi nel caso in cui siate commercianti al dettaglio. Detto questo, quindi grazie a questa azienda, vi ricordo Mobili Zito a Castelbuono, è un nome ed una garanzia, sono maestri artigiani da ormai passati 40 anni, per cui voglio dire l'esperienza c'è tutta, andateli a trovare. Detto questo, io direi a questo punto di dare un attimo la linea alla regia per una breve pausa musicale, al rientro avremo... la diretta con la dottoressa Arianna, che è una giovane editrice, e con lei parleremo di cosa significa abbracciare questo mestiere, che oggi come oggi non è che sia molto facile da farsi, perché comunque siamo sempre lì, c'è questo problema dell'economia che non va molto bene a livello cosmopolita e poi soprattutto da noi nel meridione, ma vediamo e sentiremo dalla sua viva voce quali sono le difficoltà nel fare questo mestiere, quali sono invece i piaceri, le gioie che questo mestiere può dare, le soddisfazioni e le gratificazioni morali. Linea un attimo alla regia, breve pausa musicale, poi rientriamo in studio con la dottoressa Arianna. Sempre sia stato mai sprecato nemmeno un gesto così, così. Nemmeno un bacio che sia stato regalato nemmeno un gesto così, tanto per così. Più ti guardo e meno lo capisco, quale giro hai fatto? Ora parte tutto un altro giro, io ho già detto tutto. Quando il cielo non bastava la pregata, vorrei solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. Quando il tempo non passava la nottata, eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. E allora torniamo in diretta dopo questo bellissimo brano di Ligabue, insomma, uomo di grande respiro musicale, un straordinario showman, tra l'altro, perché insomma tiene bene il palco quando fa i suoi concerti in giro per tutta l'Italia, ma non solo. Credo che sia d'accordo anche il mio amico fonico stamattina, ciao, che ringrazio. Io dimentico i nomi, ti chiami? Simone. Ah, Simone dice che è molto semplice. Allora, grazie a Simone che oggi è alla parte tecnica, alla console, è bravissimo, devo dire, con i computer, insomma, mette musica, toglie dischi, rompe i piatti. No, sto scherzando. Allora, a parte lo scherzo, dicevamo, abbiamo due argomenti importanti oggi. Il primo trattasi di editoria, parleremo di editoria, cioè di quelle persone che pubblicano i libri, i saggi, le poesie, le raccolte che fanno i poeti, gli scrittori, i saggisti e i narratori. E do il benvenuto e ringrazio la dottoressa Arianna Tanasi da Geraci Siculo. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ci siamo dati del tu fuori onda, diamoci del tu anche ci dentro. Siamo del tu meglio. Ecco, intanto ti chiedo come stai, Arianna. Bene, io sto bene. Oh, meno male. Voi come state? Beh, insomma, noi un po' così così, chi è raffreddato, chi insomma è partito, rientra. Fa parte del periodo. Fa parte della vita. Intanto ti auguro un buon anno che sia prospero di soddisfazioni e gratificazioni. Grazie. Morali oltre anche che economiche. A voi. Grazie tante, Arianna. Senti, tu sei una delle più giovani editrici che abbiamo in Italia, è così? Sì. Allora, da quanti anni fai questo mestiere? Allora, dal dicembre 2003, quindi sono 7 anni compiuti. Come ti è venuto in mente proprio l'editoria? Ma io sono cresciuta in mezzo ai libri, quindi avevo una grande passione proprio per questo campo, perché i miei genitori sono tutti e due nel mondo della scuola, quindi fin da piccola sono stata, diciamo, allevata in mezzo ai libri. E quindi quando ho compiuto 18 anni ho pensato, d'intesa con i miei genitori, di provare ad aprire una casa editrice per pubblicare libri di qualsiasi genere, per provare a rimanere in Sicilia. Ecco, il problema fondamentale era quello. Beh, perché non volevo lasciare questa terra che amo, nonostante tutte le contraddizioni. Concordo in pieno, Arianna. Senti, io ho avuto il piacere di conoscere papà in circostanze fortuite, mentre poi il nostro incontro è avvenuto al Caffè Letterario in sì. occasione della presentazione di un libro, Bubole, non ricordo favole che cosa. Favole e Bubole. Ecco, Favole e Bubole, peraltro di un autore molto, molto famoso, nel senso sì. che è un personaggio poliedrico e cosmopolita, perché lui ha insegnato, come tu sai, negli Stati Uniti, sì. è una persona di grande respiro culturale e scrive anche molto bene. E quindi sì. io presentai, fui chiamato a presentare questo libro in quell'occasione conobbi non soltanto l'autore, che adesso onestamente non ricordo il nome. Ignazio Apolloni. Oh, il dottor Apolloni. Che tra l'altro pubblicherà adesso un altro libro con noi, l'abbiamo in lavorazione. Oh, quindi insomma, ecco, potrebbe essere poi pure un'occasione. Ma volentieri, figurati, io amo molto la cultura, e poi Apolloni è un personaggio di per sé particolare. Oltre, voglio dire, alle pubblicazioni di profilo, definiamolo normale, no? Le tue pubblicazioni hanno avuto anche dei picchi alti, voglio dire, cioè ti sei presa delle soddisfazioni anche sì, abbastanza grandi. Sì, con le fiabe del P3 che stiamo riproponendo in un formato per ragazzi illustrato, tra l'altro da illustratori nazionali, abbiamo avuto delle soddisfazioni perché il progetto prevede la pubblicazione di, non tutte ovviamente perché sono molte, delle fiabe di P3 che sono state appunto raccolte in vari centri della Sicilia, dallo stesso sì, P3, tra insomma la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Sì. D'intesa con l'Accademia di Belle Arti di Palermo, con il Museo P3, abbiamo portato avanti questo progetto e finora abbiamo pubblicato 3 fiabe, che sono La Bella della Stella d'Oro, La Figlia di Biancofiore e Il Re Cavallo Morto. E una di queste, La Bella della Stella d'Oro, è stata tra l'altro illustrata da una nostra conterranea, Marcella Brancaforte, è arrivata finalista al premio Andersen nel 2016. Insomma, belle soddisfazioni. Abbiamo dai, avuto sì una bella... grande soddisfazione. Prima di chiederti quali sono i progetti futuri, soprattutto per un 2011 che si preannuncia, almeno dal punto di vista zodiacale, che segno sei, Arianna? Io pesci. Pesci. Pesci. Va, per i toro è un ottimo anno, non so... Hanno detto che per i pesci era buono il 2010. No, vabbè, io credo, sai, con l'inventario, con il prendo con le pinze, insomma, quello che dicono, anche se Fox io lo stimo moltissimo come uno dei più bravi, che riesce insieme a Branco a dire delle cose che poi in realtà possibilmente accadono, o perché cioè gli astri in effetti dicono questo, o perché lui ci azzecca, insomma, voglio dire. Ecco, un po' di fortuna. Torniamo al campo dell'editoria. Siamo in un momento non molto felice per la cultura. Tu lo sai che il governo nazionale ha tagliato molti fondi per quanto attiene la cultura in generale, soprattutto per il cinema, per l'editoria, eccetera. Come pensate di sopperire alla mancanza di interventi statali per portare avanti appunto le vostre tematiche? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda l'editoria, il decreto che insomma ci ha penalizzato di più è stato quello del 30 marzo del 2010, che ha abolito le tariffe editoriali ridotte. Quindi questo per noi è stato un grave problema, perché c'è stato un aumento delle tariffe del 700% all'incirca, quindi proprio esagerato. E quindi questo ha influito molto, tra l'altro è avvenuto tutto senza che i piccoli editori sapessero niente. Ah, quindi anche all'oscuro. Diciamo questa sorpresa. Il primo aprile, poi abbiamo costituito anche un comitato su Facebook, insomma ci stiamo muovendo, però insomma purtroppo non abbiamo ottenuto grandi risultati. Quindi diciamo, nel caso delle piccole case editrici come la mia, questo è un problema, perché noi facciamo molte spedizioni postali, sì, perché non abbiamo una grossa distribuzione a livello nazionale, uh-huh, e quindi è chiaro che molti clienti si lamentano perché non riescono a ricevere i libri in contrassegno, perché il contrassegno costa quasi 10 euro praticamente, e quindi stiamo cercando di sopperire utilizzando magari delle tariffe postali, questo piego di libri, questo tipo di tariffe che da questo punto di vista ci avvantaggiano, insomma, quantomeno sono meno gravose. E poi il problema che rimane appunto è quello, come dicevo prima, della grossa distribuzione, perché lì richiedono fatturati alti, richiedono un certo tipo di titoli, e quindi per noi è un problema. Ma, però, tu sei un tipo tosto e non ti lasci impressionare, sì, da queste sì, cose. Tra l'altro io ho un distributore comunque in Sicilia che mi cura tutta, sì, tutta l'isola, e arriva anche fino al sud Italia, insomma, quindi da questo punto di vista cerco di sopperire al resto, però le difficoltà sicuramente ci sono, soprattutto per le piccole tirature. Ho capito. Una domanda mi sorge spontaneo. Io non conosco bene il mondo né della distribuzione cinematografica, mentre conosco il mondo del set cinematografico, dello sceneggiatore, del regista, eccetera. E sono anche un po' estraneo, un po' fuori dall'ottica dell'editore. Ma per uno scrittore, per un poeta, ecco, che voglia affacciarsi nel mondo della pubblicazione, quali sono i canoni secondo i quali tu come editrice scegli quest'autore anziché un altro? Allora, innanzitutto la lettura del lavoro, quindi mi deve colpire sicuramente quello che ha scritto. Poi in tal senso anche un comitato di lettura per i diversi ambiti, per le diverse collane, che si occupa proprio di leggere ed esaminare tutto. Quindi sicuramente questo. Poi è chiaro che c'è, diciamo, l'aspetto più strettamente economico, perché molto spesso magari un libro può essere anche un capolavoro, ecco, letterario, magari anche dal punto di vista tematico, linguistico, però non ha un mercato. Ecco, purtroppo, anche se la parola è brutta, diciamo... Poi bisogna fare i conti anche con i soldi, il problema è sempre lì, insomma, fondamentalmente. Purtroppo spesso devo dire anche di no. Ma devo dire che finora mi è successo poche volte, perché comunque siamo sempre riusciti a creare poi per ogni libro un'occasione, che poteva essere magari la presentazione, la mostra, l'evento. Quindi diciamo l'obiettivo mio è quello poi di legare la pubblicazione a un evento, perché in questo modo sia l'autore che il tema trattato possono avere visibilità. Senti, ti lascio con un'ultima domanda. Tu sei ancora giovanissima e hai tutta una vita davanti, come ce lo sentiamo dire, me lo sentivo dire io quando avevo la vostra età. Adesso a 52, lo dico io a chi è più indietro di me di 10-20 anni, no? Quindi l'entusiasmo non deve mai mancare, perché guai se mancasse l'entusiasmo, tutti finiremmo di sognare, e quando finiscono i sogni, tu mi insegni, finisce la realtà, insomma, non, il sogno ti aiuta a sopravvivere. In cantiere in questo momento cosa c'è che bolle in pendola, e per il futuro quali sono, su che cosa ti indirizzerai, più sulla narrativa, sulla saggistica? Allora, intanto ci tengo a dire che abbiamo pubblicato proprio a fine dicembre scorso un libro di storia delle Madonie, che racconta tutta la storia delle Madonie dalla preistoria al Novecento. Questo è interessante. Ecco, l'autore è Salvatore Farinella, che è un architetto con la passione per la storia, che ha pubblicato moltissime opere negli anni precedenti proprio sulla storia delle Madonie, e il libro racconta per la prima volta tutto, quindi copre tutti i periodi che ha attraversato la nostra terra madonita, però attinge sia ai libri già esistenti, quindi agli studi innumerevoli dei nostri conterranei e non solo, ma soprattutto anche a fonti d'archivio. Quindi questo è un libro a cui tengo molto e che stiamo proponendo nelle scuole. Tra l'altro lo presenteremo a Cefalù le prossime settimane, quindi sì, invito a partecipare. Ok, questo sai che se mi arriva l'invito io, insomma, compatibilmente con gli impegni, insomma, sarò felicissimo di venirvi a trovare, perché so anche che siete delle persone molto, molto, molto in gamba dal punto di vista anche umano, non soltanto professionale. Ma figurati, è il minimo che possa dire di te. Non voglio plagiare, perché sennò qua i radioascoltatori pensano che io faccia dei tappeti rossi, insomma, ecco, non mi va di andare oltre. Però quello che penso lo dico tranquillamente. Insomma, intanto una donna ha coraggio, una ragazza. Coraggio, nel diventare donna ne avrai ancora di più, e in un momento di massime difficoltà, ecco, difficoltà economiche, in questo è importante la vicinanza morale oltre che fisica dei tuoi genitori, verso i quali naturalmente va tutto il mio applauso nell'aver individuato e aver aiutato una ragazza a intraprendere un'attività lavorativa non certo delle più semplici, anzi tutt'altro. Un'ultima domanda e ti lascio, perché il tempo qui purtroppo è vorace e veloce. La domanda che ti pongo è la seguente: per chi volesse far conoscere i propri lavori alla tua casa editrice, ad Arianna, che deve fare, verso chi deve indirizzarsi, cosa deve scrivere, se c'è un sito internet, il sito internet è www.edizioniarianna.it, sì, e mi possono mandare un'email a info@edizioniarianna.it, oppure sul sito ci sono anche i recapiti telefonici se vogliono anche prima avvisarmi. Ma comunque io leggo tutto, quindi l'email verrà letta sicuramente. E poi tengo anche molto al contatto diretto, quindi mi piace conoscere le persone che scrivono, perché quindi così mi fa piacere se qualcuno mi contatta, insomma, sono qui per questo. Arianna, io intanto ti ringrazio per averci dedicato parte del tuo tempo. Ringrazio te e ringrazio tutti gli ascoltatori. Loro ringraziano te per quello che hai detto, perché oltretutto, essendo giovane imprenditrice, hai dato anche, come dire, un pungolo in più ai tuoi colleghi di età per andare avanti nella vita, nonostante le grandi difficoltà, soprattutto economiche, in questo momento stanno investendo il nostro Stato e non soltanto il nostro Paese, non soltanto il nostro. Sì, grazie. Il cambiamento ognuno deve iniziarlo da sé. Bravissima. Poi, se va bene, però bisogna quantomeno provare. Avere coraggio. Nonostante tutto, sì. Arianna, un in bocca al lupo per il tuo lavoro, un saluto ai tuoi genitori e naturalmente, grazie, come dice un famoso personaggio che spesso è nei mass media, buon lavoro. Grazie. Ciao Arianna, grazie a te tesoro, grazie, buon lavoro. Ciao. Bene, adesso linea alla regia per una pausa pubblicitaria, sentite un po' i consigli per gli acquisti e poi rientriamo in studio. Nella vita comunque paghi per le scelte sbagliate, per quelle occasioni mancate che non ti fanno dormire, ma ti sanno ferire con ostinazione attraverso i ricordi di fatti e persone. Ogni giorno ci porta notizie del tempo passato e accende le luci sul volto che hai amato. È l'eterna ripresa di una scena sospesa. L'essenziale è riuscire ad avere qualche cosa di buono da fare o almeno da dire, per non restare a guardare. L'essenziale è provare a dare il meglio, perché a dare il peggio c'è sempre tempo. Infatti, come vedi, è tornato l'inverno. Cosa stava per succedere, cosa stavo per prendere, ma ormai non accadrà, no, non succederà. Non saprò mai come sarebbe stato se quel giorno d'estate io non mi fossi fermato, se quell'amore negato non si fosse perduto. Ogni giorno mi porta notizie di quanto ho sbagliato e accende le luci su un volto che ho odiato. Nell'eterna ripresa di una scena sospesa, l'essenziale è provare a fare in modo di avere sempre qualcosa in cui credi da inseguire, per non restare a piedi. L'essenziale è riuscire a dare forma anche a quello che ti sembra assurdo. E se pensi al futuro, non tutto è perduto. We'll be right back. Allora, rieccoci in studio, perché si fosse messo in ascolto in questo momento state ascoltando Carta e Penna in studio Filippo Glorioso, programma che viene onda ogni giovedì da mezzogiorno circa fino alle 13 circa e poi in replica domenica alle 11:30 sempre approssimativamente. Abbiamo parlato di editoria con la dottoressa Arianna Atanasi di Geracisiculo, una giovane imprenditrice che da qualche anno sta riscuotendo successi su successi nonostante, insomma, le grandi difficoltà in tutti i campi che oggi abbiamo in Italia, non solo, si parla di una difficoltà economica, evidentemente non tira l'economia, quella italiana è addirittura all'1 e qualcosa per cento, il PIL, il prodotto interno lordo, non cresce più di tanto, questo insomma ci preoccupa alquanto. A questo aggiungiamo arrivano notizie sconfortanti anche sul fronte dell'impegno dei militari italiani in Afghanistan. Il 18 gennaio di adesso, insomma qualche giorno fa, e purtroppo è venuto a mancare un altro, l'ennesimo, il 33esimo militare italiano che cade in Afghanistan. Si tratta del caporal maggiore Luca Sanna, appartenente all'8° reggimento alpini, appena 33enne, pensate, era sposato ed era originario di Oristano, in Sardegna. Su Facebook scrivono tantissimi ragazzi e ragazze, questo fa onore ai giovani. Una dice: onore a te caporale maggiore Luca Sanna, vicino alla famiglia con il cuore, sono i sostenitori delle forze dell'ordine. C'è un'altra denuncia molto forte, devo dire, di una ragazza che si chiama Marina Manno. Mi chiedo, dice, a cosa serve sacrificare la vita dei nostri ragazzi per certa gente. Purtroppo vengo da un paese islamico e meglio di me non li conosce nessuno, non cambieranno mai, meglio farli scannare tra loro nella speranza che si estingua la razza. Beh, molto forte come messaggio, insomma, su Facebook. Questa Marianna Manno, a quanto pare di origine islamica, con il rispetto per quello che lei dice, non, anche se l'istinto potrebbe suggerire o suggerirci di dire e pensare le stesse identiche cose di Marina Manno, però dobbiamo un po' essere meno pessimisti. I nostri militari, a dire del nostro governo, vanno lì, sono volontari per cercare di dar mano a quella gente, a quel popolo, di modo tale che si possa, insomma, ristabilire la democrazia in quel paese, che ci siano i diritti umani. Ma mi sa che, insomma, Marina Manno dice: riconosco bene, non cambieranno mai, la speranza è l'ultima a morire. Noi ci auguriamo invece che possono cambiare. Fatta questa premessa, ci sono tantissime notizie non tanto belle anche sui giornali quotidiani di oggi. Le televisioni hanno dato molto risalto a quello che è la storia del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, messo sulla gogna con i fatti delle feste fatte ad Arcore, non solo ad Arcore. Lui che si difende dicendo che c'è la mia compagna quando io faccio queste feste, quindi lungi da me. C'è quella ragazza che anche ieri sera è apparsa in televisione, che ha scongiurato un rapporto sessuale con il presidente del Consiglio o con l'entourage del medesimo, con amici del medesimo. Ma intanto la magistratura sta facendo il suo corso, anche, interviene anche la Chiesa con l'Osservatore Romano e anche con prelati di alto bordo, che dicono che bisogna far chiarezza. Lo stesso Presidente della Repubblica ha detto che bisogna far chiarezza su questi fatti, se no si rischia di apparire anche fuori dall'Italia come un paese dove tutto è facile fare, è tutta una fanghiglia, dove ci si muove in un marasma di cose illegali, e questo certo non è consentito a chi governa un paese come Silvio Berlusconi. Staremo a vedere cosa la magistratura farà. Intanto lui si è rifiutato di presentarsi davanti ai magistrati di Milano, e quindi vediamo un pochino questa querela come va avanti. Ancora nelle mass media si parla del caso Scazzi, non si riesce a capire cosa sta succedendo. Un padre che prima si pente, poi accusa, poi si addossa la responsabilità, gli addetti ai lavori, anche insigni psichiatri come Crepet, sostengono che c'è qualcosa di losco ancora sotto da chiarire, che non è forse soltanto lui il responsabile, che possibilmente la figlia è innocente. Ma in tutto questo marasma, insomma, l'Italia pende per un filo, siamo tutti davanti ai teleschermi a capire cosa sta succedendo e cosa potrà venire fuori. Ancora si parla di un'autovettura di un certo colore che si è vista transitare prima in maniera tranquilla, poi in molto velocemente sulla stessa strada, insomma ce n'è per tutti i gusti. Gente che scompare, ieri sera in una trasmissione che addetta a questo proposito, insomma, non spariscono dei ragazzi, alcuni vengono ritrovati, altri no, anche lì ci sarebbe molto da indagare. Si sa però che ci sono delle forze dell'ordine, c'è un reparto scelto speciale che si occupa del ritrovamento delle persone che si sono smarrite, soprattutto bambini e ragazze, ma c'è c'è da stare poco tranquilli, c'è da stare poco allegri, sperando che tutto possa rientrare nella norma, soprattutto per chi vive a casa l'angoscia di non vedersi rientrare i propri cari. Prima di passare la linea alla regia per una pausa musicale, io desidero ringraziare Pronto in Tavola della J.C. di Baggesi Salvatore, via Ceraci 123 a Castelbuono. I gusti e i sapori delle madonie pensate sono irrimediabili, insomma, pasti pronti, le paste sono fresche, sono paste ripiene, catering e banqueting per chi volesse fare una festa a casa propria, oppure per quanto attiene a cresime, prime comunioni, anche matrimoni, perché no, potete chiamare tranquillamente Pronto in Tavola. Ci sono anche i cuochi volanti che non vi arrivano con l'aereo o con l'elicottero, ma i cuochi volanti vi arrivano con le loro autovetture cariche di vettovaglie e anche di tutto quello che necessita per preparare un gustosissimo pranzo o una cena all'insegna del buon gusto. E quindi non dovete sforzarvi più di tanto, basta chiamare Pronto in Tavola, la DJ Ciba di Baggesi Salvatore in via Geraci 123 a Castelbuono, e non vi scomodate più di tanto. Ancora bisogna ringraziare un ristorante che è particolare, perché è allocato in un posto molto bello, ha anche un parco, un giardino attiguo alla struttura della pizzeria ristorante, sto parlando del vecchio Palmento, che è in via Failla 2 a Castelbuono. D'estate è piacevolissimo gustare la pizza fatta a legna fuori nel giardino, e poi i primi piatti, le specialità come carne di carne locale, come spesso avviene in tutti i ristoranti della Sicilia, stinchi di maiale e di agnello che sono buonissimi, i primi piatti con sughe di cacciagione, ma non voglio stupirvi più di tanto. Intanto è già il locale di per sé che entrandoci vi dà l'atmosfera casalinga, c'è un bellissimo camino che riscalda tutto l'ambiente, arredato in maniera rustico, e quindi già vi mette nelle condizioni di sentire il calore di casa vostra. Ricordate, ristorante pizzeria Vecchio Palmento in via Failla 2 a Castelbuono. Non abbiamo ancora finito per questa tranche, vi mando a Gangi e Pedreria Soprana. Perché? Perché adesso ci sono gli sconti e quindi andate a visionare Visione Abbigliamento. Lo trovate a Pedreria Soprana in provincia di Palermo, naturalmente, per chi non lo sapesse, Bivio Madonnuzza, telefono 0921 680202, e a Gangi, sempre in provincia di Palermo, via Nazionale, telefono 0921 689830. Firme prestigiosissime, capi di abbigliamento uomo-donna che sono la fine del mondo, a parte le firme che sono importantissime come Replay, Gaudi, Diesel, Museum, Refrige e Navigare. E ancora a tantissime altre, dai piumini ai cappotti ai vestiti in pura lana merce, insomma trovate tutto quello che necessita per passare un caldo, caldo inverno. Ricordate Visione Abbigliamento, Pedreria Soprana, Bivio Manonuzza e Gangi. Detto questo, linea alla regia, breve pausa musicale, rientreremo tra poco con un altro argomento. Io dico quello che voglio, dico quello che voglio. Io dico quello che mi passa dentro questa testa. Bene, lui è un grandissimo cantante, cantautore, successi infiniti. Pino Daniele è uno dei più grandi cantanti italiani, che è stato anche riconosciuto tale all'estero. Vi dicevo all'inizio della trasmissione, dovevamo avere un altro ospite, l'ingegner Corione, col quale dovevamo parlare di energia alternativa, quindi eolica, di riciclaggio dei rifiuti, insomma soliti urbani, che si possono trasformare anche questi in energia elettrica e in altre fonti di energia rinnovabili. E poi lui aveva delle idee ben precise, stava sviluppando un progetto ben preciso, purtroppo per motivi tecnici non è stato possibile raggiungere l'ingegner Corione. Ci riserviamo di avere la prossima settimana per avere ragguagli su come la gente possa risparmiare sulla bolletta facendo di interventi diversi, non soltanto tramite l'eolico ma anche con il fotovoltaico, e capire le differenziazioni che esistono tra un tipo e l'altro di fonte energia alternativa. Dunque, allora, c'è una notizia che ci giunge da Catania e questo ci rende molto orgogliosi dell'essere siciliani. Pensate, c'è un progetto cosiddetto Melo, tre medici catanesi in Ucraina per bambini cardiopatici. Ed è partita proprio oggi alla Sicilia una nuova fase del progetto Melo, iniziativa di medici umanitari avviata nel 2007 dall'organizzazione LICOS, Laboratorio Italiano per la Cooperazione allo Sviluppo. Il progetto sanitario internazionale è rivolto a garantire il diritto alla salute di minori svantaggiati e finalizzato alla creazione di corridoi umanitari per bambini che non possono essere curati nel loro paese. Proprio stamattina i tre medici catanesi, cardiochirurghi Carmelo Mignosa e Massimo Mazzamu, e il cardiologo pediatra Innocenzo Bianca, sono partiti all'aeroporto di Fontanarossa del capoluogo etneo alla volta dell'Ucraina, dove saranno ricevuti attraverso la struttura operativa estra di LICOS dalle massime autorità sanitarie nel campo della genetica, della cardiologia e cardiochirurgia del paese, appunto, che li accoglie per realizzare le visite e pianificare gli interventi che saranno effettuati nel prossimo mese di marzo in Ucraina. I tre medici visiteranno anche 11 bambini ucraini orfani con patologie cardiache a causa delle quali non possono essere spostati dal loro paese. I tre componenti della delegazione siciliana individuata la LICOS sono professionisti di eccellenza, già in precedenza impegnati in missioni umanitarie a favore di bambini africani. Negli ultimi due anni hanno anche realizzato tre complessi interventi a cuore aperto esperto su bambini ucraini segnalati dalla Licos. Appunto, in questa occasione si recheranno nella città di Kiev, Rivne, nella capitale ucraina, incontreranno i colleghi della principale struttura sanitaria in materia di cardiochirurgia, quali il Centro Ucraino di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica, il Centro Cuore della città di Kiev e il Reparto di Genetica e Morfologia dell'Ospedale Nazionale Pediatrico Okhmodiet. Il dottor Mazzamuto incontrerà inoltre anche il presidente di uno dei principali Rotary Club di Kiev per avviare il collegamento con il Rotary Paternò Alto Simeto, che ha contribuito naturalmente a sostenere la missione. Bene, come vedete anche nella nostra Sicilia abbiamo delle cose di eccellenza e questo è a nostro vanto il fatto che tre specialisti siciliani siano partiti alla volta di Kiev in Ucraina per prendersi cura di questi bambini che hanno delle patologie piuttosto gravi. Ma anche in Sicilia abbiamo delle eccellenze, come per esempio l'ISMET di Palermo in collaborazione con gli Stati Uniti, dove vengono curate patologie e si fanno trapianti di una certa rilevanza. Ci ripromettiamo con la redazione di Carta e Penna, di cui io mi onoro di far parte e di condurre questa trasmissione, di portare dietro questi microfoni il direttore sanitario dell'ISMET di Palermo e anche alcuni cardiochirurghi, nonché alcuni chirurghi di fama internazionale che prestano la loro opera all'ISMET di Palermo. Certo, la sanità ha anche delle difficoltà enormi, a volte delle sviste che insomma sono macroscopiche, nel senso che leggevo l'altro giorno su un giornale che un signore è arrivato al pronto soccorso, anzi no, l'hanno letto ieri sera anche i telegiornali, oltre ad averlo letto, è stato abbandonato su una lettiga con un infarto piuttosto pesante addosso ed è morto su quella lettiga senza che nessuno abbia preso in cura questo signore. Beh, sono delle cose molto gravi, o come i fatti eclatanti che sono successi a Reggio Calabria, negli ospedali riuniti di Reggio Calabria, dove ci sono state morte conclamate, insomma, abbastanza significative, e questo la dicono lunga su alcuni professionisti della medicina che prendono con molta nonchalance il proprio mestiere e anziché essere attivi ed essere soggetti insomma interessatissimi sulle patologie di cui loro si occupano, lo fanno, ripeto, con molta nonchalance, e questo poi causa degli incidenti piuttosto pesanti, perché si gioca con la vita delle persone, come i magistrati giocano con la morale delle persone quando mettono dentro innocenti, e poi naturalmente si accorgono che questi non erano i veri colpevoli. Intanto quel povero disgraziato si è fatto 20 anni di galera, vai a rimborsare il tempo che ha sprecato nello stare in una struttura penitenziaria come quella italiana. Fatto questa premessa, prima di salutarci, sono quasi le 13:05, siamo al tempo massimo per i saluti, ma prima di farlo devo ringraziare Arrediamo, il nuovo showroom Berloni in via Brancati 2 a Cefalù. Arrediamo e progettiamo e progettazione interni, cucini Berloni completi di elettrodomestici a partire da euro 3.900, non è poco, 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Per maggiori dettagli visitate il sito arrediamo.berloni@libero.it. E ancora un grande abbraccio affettuoso va a un altro sponsor, che è i Quattro Cannone, ristorante pizzeria Quattro Cannone con forno a legna, dove ha tantissimi primi piatti, tra questi il ragù al sugo di cinghiale, che è straordinario, insomma è qualcosa di particolare. Vi dicevo, le pizze che sono meravigliose, fatte a legna rigorosamente, un ambiente molto accogliente, raffinato se volete, a me pare così, e quindi ve lo descrivo in questo modo. Purtroppo non abbiamo le immagini, non siamo in televisione, altrimenti ve lo farei vedere e toccare con mano. E poi la cosa importante è che alla pizzeria e ristorante Quattro Cannola, oltre i primi piatti, oltre gli antipasti, oltre gli ottimi vini che la casa mette a vostra disposizione, i secondi piatti che sono meravigliosamente gustosi, c'è il fatto che, pensate, lì si fanno i corsi di scuola italiani per pizzaioli, quindi andate Quattro Cannoli a Castelbuono, lo conoscono tutti, è facilissimo da trovare, iscrivetevi se volete intraprendere la carriera o solo per uno sfizio, per saper fare qualcosa in più nella vita. iscrivete a questa scuola italiana pizzaioli e ne uscirete veramente bravi. Quindi vi ricordo, ristorante pizzeria 4 Cannoli a Castelbuono, ancora sempre a Castelbuono, Rinascimento, si trova nel cuore del centro storico di Castelbuono in via Sant'Anna, pochi passi dal centralissima piazza Margherita, la piazza principale. Firme di tutto e di più, prestigiosissime: Cotton Joy, Epidea, Caleffi, via Roma 60, insomma per tutti i gusti. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di tutto quanto è possibile grazie alle aziende fornitrici da anni leader nel settore di biancheria per la casa. Ecco, quindi vi mettono a disposizione tutto quello che necessita per la vostra biancheria, per la vostra casa, grazie ai marchi nazionali. Pensate, alla nostra società sono i ricami a mano, siamo specializzati nei ricami a mano, quindi per chi ama questo tipo di lavorazione, beh, non deve far altro che andare al Rinascimento, appunto in prossimità di Piazza Sant'Anna, proprio di fronte al municipio di Castelbuono. Ci sono gli sconti in atto, quindi soprattutto nel reparto spugne per l'arredo bagno, ma anche in altri campi come gli accappatoi e come per esempio l'arredo culla. Andateci, fatevi gli sconti, comprate ad occhi chiusi, perché sono delle cose straordinarie, molto belle, prestigiose da portare nella propria casa. Rinascimento a Castelbuono. Invece, se vi trovate le parti di Petraria, dovete andare assolutamente a Madonnuzza, che è proprio sotto Petraria. Perché? Perché lì trovate un ristorantino a misura d'uomo, Vecchi Sapori, e sono veramente sapori antichi che riscoprite andando a trovare questo ristorante, appunto a Bivio Madonnuzza. Pensate, c'è l'arrosto di tacchino marinato, che è la fine del mondo, come antipasto, come Vecchi Sapori. Per esempio abbiamo le zuppe varie del giorno, oppure il formaggio alla griglia, i primi piatti, i tortellini di e pasticciati, uno dei tanti. I secondi piatti, poi ve ne dico soltanto uno, il controfiletto al sale grosso, non so cosa voglia dire, però insomma gustatelo, oggi vi consiglio questo. Allora vi ricordo di andare a, se vi trovate alle parti di Petraria, scendete al Bivio Madonnuzza, Vecchi Sapori, lo trovate lì, vi aspettano. Andateci a nome di Filippo Glorioso, una chicchina in più a fine cena o a fine pranzo. Sicuramente i ragazzi che gestiscono i Vecchi Sapori, i proprietari, sono a vostra totale disposizione. Io mi pare di aver finito tutto, vi ringrazio per essere stati con noi oggi, una puntata un po' veloce per motivi tecnici, e vi rimando domenica per la replica, ma giovedì prossimo spero di avere qui l'ingegner Corione e qualche altro importante personaggio nel campo specifico, spero della sanità, per parlare dei tumori, per parlare di questa patologia che è molto frequente in questi ultimi tempi, se ne parla sempre di più, e parleremo anche, perché no, se ciò è consentito dagli specialisti che sono sempre impegnati nei vari nosocomi, non è facile rintracciarli, ma se riescono a rintracciarne qualcuno che abbia la buona volontà di dividersi tra la sala operatoria e la sala di registrazione o la sala dove noi trasmettiamo qui a CRM, insomma, chiedere cosa vuol dire avere un tumore addosso, come si affronta psicologicamente un dramma del genere. A volte si può vincere, l'ha fatto un grosso personaggio del cinema americano, ha vinto il tumore alla gola all'età di 75 anni, quindi non so se tutti siamo nelle condizioni di poterlo fare, ma è bene parlarne con gli specialisti. Poi gli infarti sono conseguenziali, cioè ogni giorno c'è gente che subisce quest'altra patologia, l'infarto al miocardio, e ne parleremo con un cardiologo di fama e vediamo cosa ci suggerisce per avere un cuore sempre giovane, sempre pimpante, affinché insomma possiamo vivere una vita più serena e più tranquilla. Ringrazio la parte tecnica Simone Brancato, che è stato a gestire la parte tecnica alla console. Spero di averlo la prossima settimana, è un bravissimo fonico, un ragazzo che parla molto poco. Puoi salutare anche tu se vuoi, Simone. Senz'altro, un arrivederci a tutti e vi rimando ovviamente a giovedì prossimo, speriamo di poter essere anch'io questa volta dalla parte del mixer. Ok, grazie Simone, grazie ancora a te per la tua professionalità. Cos'altro dirvi? Niente, vi rimando domenica, ascoltate CRM col suo palinsesto, la nostra musica, spero che sia di vostro gradimento, io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo in diretta. E cos'altro vi devo dire? Buon weekend, andate a trovare i ristoranti che vi ho detto, divertitevi mangiando, e mangiando divertitevi. Ciao a tutti.